Quella stradetta menava anni addietro sino al fiume, ma era da gran tempo abbandonata dopo che avevano aperto al transito la nuova. Perciò, continuando appena per un'ora di cammino, era poi tagliata da fattorie e da muri di cinta. Samuele ben sapeva tutto ciò, del resto era da sì lungo tempo chiusa che Andy mai ne aveva sentito parlare. Perciò la percorreva con aria di umile rassegnazione, borbottando e gridando ad ogni tratto che era una strada abominevole e che rovinerebbe i piedi a Jerry. Ora so che cosa valgono i vostri avvertimenti, disse Haley. Vi conosco abbastanza, né mi farete uscire di qua nonostante tutto il vostro schiamazzo. Tacete dunque una volta. Il Signore può tenere la strada che vuole, disse Samuele con una triste sottomissione, ammiccando però nuovamente in modo più significativo verso Andy, la cui pazza ilarità stava ormai per prorompere. Samuele era meravigliosamente vivace e si vantava di possedere una vista acutissima. Di quando esclamava che scorgeva un cappello di donna sopra un'altura a qualche distanza o chiamava Andy perché guardasse laggiù in un burrone se non fosse Elisa che vi si discerneva. Sempre reiterava le sue esclamazioni ovunque si vedesse un luogo roccioso, dirupato, tenendo per tal modo Haley in uno stato di continua agitazione. Dopo un'ora di cammino su quella via giunsero tutti ansanti e scalmanati nel bel mezzo del cortile di una grande abitazione agricola. Non vi si vedeva anima vivente perché tutti erano a lavorare nei campi, ma siccome un vasto fienile chiudeva la strada, era evidente che il loro viaggio in quella direzione aveva termine qui. Non lo dicevo io al signore, fece Samuele con aria di oltraggiata innocenza. Come mai un signore forestiero avrebbe da saperne di più sulle cose del paese di coloro i quali vi sono nati e allevati? Tu furfantaccio, disse Haley, tu lo sapevi, eh? Ma non ve l'ho forse detto e ripetuto? Voi non avete voluto credermi. Io vi dicevo, o signore, che la strada era troncata da muri e chiusa e che io non speravo si potesse continuare oltre. Andy m'ha ben sentito, egli. Non c'era modo di poter dire il contrario. E l'infelice capo di quella spedizione fu costretto a chiudere in sé l'ira che lo divorava. Tutti e tre, pertanto, voltarono fronte e si incamminarono dal lato della strada maestra. In conseguenza di quei vari indugi, erano passati circa 3 quarti d'ora da che Elisa aveva addormentato il suo bimbo nell'osteria del villaggio, quando la comitiva sopraggiunse nel medesimo luogo. Elisa trovavasi accanto alla finestra, guardando in un'altra direzione, e l'occhio acuto di Samuele la riconobbe. Haley e Andy erano indietro da alcuni passi, e in quell'istante decisivo Samuele fece in modo che gli cascasse il cappello come per caso e mandò una strepitosa, significativa esclamazione. Elisa tremò tutta e si gettò vivamente all'indietro. La cavalcata passò rapida sotto la finestra, indirizzandosi alla porta dell'osteria. Quel solo istante ad Elisa parve un secolo. Una porta della camera dava sul fiume. Elisa prende il fanciulletto e corre verso la sponda. Haley la vide passare come baleno quando ella disparve dal lato del fiume e precipitando da cavallo e chiamando a tutta gola Samuele Andy, si diede a correre sulle sue tracce. In quel momento terribile, i piedi di Elisa pareva avessero le ali. In un batter d'occhio ella si trovò in riva al fiume ed ecco che ivi già la incalzano. Allora ella, sostenuta da quella forza che Dio dà solamente al disperato, balzò mettendo un selvaggio grido e si slanciò dalla riva al di sopra della torbida corrente fin sulla massa di ghiaccio. Era un salto da non credersi, quale può tentare solamente la disperazione o la pazzia. Haley, Samuele e Andy, colti da stupore a quella vista, mandarono alte grida alzando le braccia. L'enorme blocco di ghiaccio sopra il cui ella era si gettata affondava, scricchiolava sotto il suo peso, ma ella non vi si fermò un istante. Con urli da belva e con l'energia che la disperazione infonde, saltò su di un altro masso, indi sopra un terzo, incespicando, saltando, lanciandosi di nuovo. Le sue scarpe sono cadute, le calze strappate, dai piedi esce il sangue in copia, ma ella nulla vede, nulla sente, fino a che, in confuso, come sognando, intravede la riva dello stato dell'Ohio e una mano protesa verso lei per aiutarla a salirvi sopra. Tu sei una giovane coraggiosa, chiunque tu sia, disse quell'uomo. Elisa Riconobbe la voce e le sembianze di un tale che possedeva una fattoria non lungi dalla casa che Testella aveva abbandonata. «Oh, signor Simis, salvatemi, dea, salvatemi, nascondetemi!» disse Elisa. «Che è stato?» disse egli. «Questa, se non erro, è una delle donne di Shelby. Il mio figliuolo, questo bimbo, lo hanno venduto! Colà il suo padrone!» disse ella, stendendo la mano verso la sponda del Kentucky. «Signor Simis, avete voi un fanciulletto?» «Sì, ne ho uno», egli disse, traendo ruvidamente ma con bontà Elisa sulla sponda. «Del resto sei una giovane piena di coraggio». Quando ella fu al sicuro sulla riva, l'uomo riprese: «Io vorrei esserti utile, ma non saprei dove collocarti. Il consiglio che posso darti è di recarti colà». E indicava una bella e vasta casa che scorgeva a poca distanza dalla via principale del villaggio. «Cerca là un ricovero. Quelli che vi stanno son brava gente. Non c'è pericolo di sorte, ti daranno aiuto, sono avvezzi a tali cose». «Dio vi benedica», esclamò Elisa dal più profondo del cuore. «Non c'ho merito alcuno», disse egli. «Quel che ti ho fatto è un bel nulla». «Oh, certamente, signore, a nessuno ne parlerete voi. Diamine, figliuola mia, ma per chi mi hai preso? No, certo, non dirò sillaba. Su, dunque, vai, bella e buona giovane. Tu hai ben guadagnato la tua libertà e l'avrai, te l'assicuro». Elisa si strinse al petto il fanciullo e ratta si allontanò. L'uomo stava fermo e la guardava. «Shelby forse potrà dire che questo che io faccio non è un atto molto amichevole. Ma che dovevo fare io? Se gli trova una delle mie donne in una condizione simile, mi renda pan per focaccia. Io non potrò mai vedere una creatura che lotta e s'affanna per sottrarsi ai cani che la inseguono e voltarmi contro a lei. E poi non vedo perché dovrei dar caccia a un infelice per altrui vantaggio». Così parlava quel misero pagano del Kentucky, che mai era stato istruito dei doveri costituzionali e perciò agiva senza avvedersene da cristiano, il che avrebbe evitato se fosse stato più istruito in un altro ordine di idee. Haley erasi fermato spettatore attonito di quella scena nella quale Elisa disparve dalla riva, poi ad un tratto rivolgendosi fissò uno sguardo scrutatore sopra Samuele Handy. «Ecco proprio un bell'affare», disse Samuele. «Questa donna è il diavolo in corpo, credo io», esclamò Haley. «Saltava come un gatto selvatico». «Ora», disse Samuele grattandosi il capo, «io spero che il signore ci vorrà scusare se rifacciamo questa strada. Io non mi sento il coraggio di passare per l'altra». E diede in uno scroscio di risa. «Ridi, eh?» disse il mercante con piglio irato. «Dio vi benedica, signore, non posso più tenermi», disse Samuele allentando il freno alla gioia che da lungo tempo tratteneva facendosi violenza. «Oh, che scena! Buffo era il vederla saltare, slanciarsi e far scricchiolare il ghiaccio e sentire quel plum, crack, puff! Che furia, buon Dio, come volava!» E Samuele e Andy continuarono a sghignazzare finché le lacrime scorsero loro per le guance. «Vi rificcherò ben io le vostre risa in bocca», disse il mercante e fece sibilare alle loro orecchie lo scudiscio. Ambedue si curvarono per scansare i colpi e, mandando un grido, si lanciarono dalla riva verso i loro cavalli. «Buonasera, padrone», disse Samuele con tutta gravità. «Credo che la signora stia in ansietà per Jerry. Il signor Haley non vorrà trattenerci più a lungo. La padrona non permetterebbe che noi passassimo sopra queste bestie di notte il ponte che volle passare Lisa». E detto ciò, pizzicando in guisa faceta le costole di Andy, saltò in sella e dietro lui il compagno e si misero ambedue di gran galoppo, ma le loro risa si udivano ancor da lungi, portate dal vento. 8. I cacciatori di creature umane. Era già quasi notte allorché Lisa si trovò sull'altra sponda dell'Ohio. La nebbia della sera, innalzandosi lentamente dalla superficie delle acque, l'avviluppava sempre più di mano in mano che l'andava allontanandosi dalla riva, e il fiume gonfio, le masse galleggianti di ghiaccio, mettevano tra il suo persecutore e lei una barriera insormontabile. Haley se ne tornò dunque passo passo alla piccola locanda per quivi riflettere su quel che aveva da fare. La donna gli aprì la porta di un salottino parato di una tappezzeria comune. Nel mezzo del salottino vedevasi una tavola coperta di tela incerata, e intorno alla tavola eranvi delle sedie di legno dall'alta spalliera e dai piedi lunghi e sottili. Sopra il camino, entro cui fumava un fuoco a metà spento, alcune figurine di gesso facevano mostra dei loro sfarzosi colori e una panca piuttosto incomoda si stendeva lungo il focolare. Ivi, appunto, Haley andò a sedersi al fine di meditare sull'instabilità delle speranze umane e sulla felicità in generale. Che bisogno avevo di quel piccolo mariuolo, disse egli a se medesimo, perché mi lasciassi corbellare a questo modo? E Haley procurava di consolarsi, rivolgendo a se stesso una filza di imprecazioni ben meritate a parer nostro, ma che, per non offendere le orecchie dei nostri lettori e delle nostre lettrici, ci asterremo dal riferire. Nel tempo che egli si abbandonava a così gradevole occupazione, la grossa voce dissonante di un uomo che, a quanto sembrava, era disceso in quel punto medesimo da cavallo alla porta dell'osteria, lo riscosse profondamente. Haley corse alla finestra. Perbacco! Questo si chiamerebbe davvero un aiuto della provvidenza. In fede mia è proprio Tom Locker costui. E Haley uscì in fretta. Presso il banco dell'oste stava un uomo robusto, di forte muscolatura, alto 6 piedi e proporzionatamente largo, il quale aveva indosso un pastrano di pelle di bufalo, il cui pelo, in fuori, gli dava un aspetto selvaggio e terribile, corrispondente in tutto alla sua truce fisionomia. Le linee del volto e la conformazione della testa denotavano al più alto grado la brutalità e la violenza. Per verità, se le nostre lettrici potessero rappresentarsi un gran molosso pervenuto allo stato d'uomo, il quale andasse passeggiando in pastrano e cappello, avrebbero esattamente un'idea della sua persona. Era con lui un suo compagno di viaggio, il quale, sotto vari rispetti, formava, per così dire, la sua antitesi. Piccolo, mingherlino, agilissimo nei movimenti, al pari di un gatto. I suoi occhi neri e penetranti avevano un'espressione di curiosità inquieta che ben si addiceva ai lineamenti angolosi della sua faccia. Il suo naso affilato e prominente si spingeva innanzi, quasi fosse avido di ficcarsi dappertutto. I suoi rari capelli erano diligentemente ravviati sopra la fronte. Ogni atto o gesto di lui rivelava l'uomo sospettoso e maligno. L'omaccione afferrò un gran bicchiere, lo empì a metà e lo tracannò d'un sorso. Il suo piccolo compagno si rizzò sulla punta dei piedi e, girando or di qua or di là il capo, fiutò le bottiglie. Poi, con aria circospetta e con voce esile e tremolante, ordinò del rosolio di menta. Quando questa bevanda gli fu mesciuta, egli la prese, la esaminò con aria di compiacenza a guisa d'uomo il quale si compiace d'aver fatto quel che desiderava appunto di fare e si dispose a sorbirla, davvero intelligente. Per questa volta ecco quel che si può dire aver fortuna. Come va, Locker? Disse egli, inoltrandosi e stendendo all'omaccione la mano. Per il diavolo, che cosa vi conduce qui, Haley? Tale fu la cortese risposta di Locker. L'ometto, che portava il nome di Marx, posò il suo bicchiere di un tratto e, avanzando la testa, guardò con viva curiosità il sopraggiunto. Davvero, Tom, ecco la miglior fortuna possibile. Io sono in un imbroglio e bisogna che voi mi aiutiate ad uscirne. Lo credo bene, brontolò il poco amabile individuo. Quando siete contento di vedere qualcuno, è certo che avete bisogno di lui. Di che si tratta? È un vostro amico costui, un socio forse? Disse Haley con una certa titubanza. Per l'appunto, ecco, Marx, vi presento il mio antico socio di Natchez. Lietissimo di fare la vostra conoscenza, disse Marx tendendogli una mano secca come l'artiglio di un corvo. Il signor Haley, credo. Egli stesso, signore, rispose Haley. E adesso, signori, per festeggiare il nostro incontro bisogna che io paghi qualche cosa. Ehi, vecchia marmotta! Gridò all'oste. Dell'acqua calda, zucchero, sigari e acquavite a bizzeffe, ma subito! Accese le candele, il fuoco ravvivato, i nostri tre degni individui si assisero intorno a una tavola ben provvista. Haley snocciolò un patetico racconto delle sue tribolazioni. Locker lo ascoltava in silenzio, con piglio attento e burbero. Marx, che stava componendo con la più gran cura un pons di suo gusto particolare, Alzava di quando in quando gli occhi e, appuntando il naso affilato e il mento verso la faccia di Hayley, seguiva col più vivo interesse la narrazione di lui. La fine della storia parve lo divertisse molto, a giudicarne da certi atti che indicavano un riso a stento represso. Così dunque vi hanno servito proprio per le feste. Bisogna convenire che il tiro è ben condotto, disse egli. Il commercio di codesti piccini mette sempre nell'imbroglio, soggiunse mestamente Hayley. Se potessimo trovare una razza di femmine che non fossero così tenere dei loro bamboli, in fede mia sarebbe questa la migliore delle scoperte, disse Marx, accompagnando d'un riso di compiacenza questa sua arguzia. In verità, osservò Hayley, io per me non ci ho capito nulla. Mai, questi bimbi non arrecano mai loro che fastidi. Si potrebbe credere per conseguenza che se dovessero essere contente di sbarazzarsene. Niente affatto, anzi, più quelli sono loro cagioni di affanno, più esse vogliono loro un bene matto. È vero, signor Haley, disse Marx, favoritemi dell'acqua calda. Sì, è per l'appunto come voi dite. Vedete, io quando ero negli affari comprai una giovane, robusta, graziosa, molto intelligente. Ella aveva un piccino che era miseramente infermiccio, gobbo o poco meno. Non sapendo che cosa farne, lo diedi a un uomo, il quale, visto che il piccino non gli costava nulla, volle pure allevarlo a suo rischio e pericolo. Io non mi sarei mai immaginato che la femmina avesse a trovare da ridire in proposito. Ma Dio buono, se l'aveste veduta! Si sarebbe detto che la teneva in maggior pregio il fanciullo, appunto perché era cagionevole, piagnolone e la tormentava di continuo. E non c'era mica nulla di infinto, perché ella si pose a piangere e a deperire, come se avesse perduto ogni cosa al mondo. Ah, vi dico io che era una cosa strana il vederla. Coteste femmine avranno dunque sempre di tali idee per il capo? Ebbene, a me è accaduto precisamente lo stesso, disse Haley. L'estate scorsa mi procurai una giovane, la quale aveva un fanciullino molto gentile, i cui occhi erano sfavillanti al pari dei vostri, ma quando mi diedi a esaminarli mi accorsi che il piccino era cieco, cieco del tutto. Pensai dunque che era meglio me ne disfacessi senza dir nulla. Il danno non era considerevole, io l'avevo cambiato con un barile di whisky, ma quando volli pigliarlo la madre diventò furiosa come una tigre. Il fatto accadeva prima della partenza. I miei schiavi non erano ancora incatenati. Eccola dunque che salta sopra una balla di cotone, strappa un coltello di mano a un marinaio e fa indietreggiare tutti in un istante. Ma quando ella vide che tutto ciò a nulla giovava, si voltò d'improvviso col figliuolo nelle braccia, si gettò a capo in giù nel fiume e nessuno l'ha mai più riveduta. «Eh, via!» disse Locher, il quale aveva udito questi racconti con malcelato disprezzo. «Voi, signori, non sapete pigliare le cose per il loro verso. Le mie donne non mi fanno mai siffatte scene, ve lo dico io». «Davvero? E in qual modo le pigliate, dunque?» disse Marx vivamente. «Come faccio, volete dire? Ebbene, io, allorché compro una giovane schiava, se ella ha qualche bimbo che sia da vendere, me lo pongo dinanzi e, messole il pugno sotto il naso, le dico: guarda bene, se tu fai una parola più alta dell'altra, io ti rompo la testa. Non voglio ascoltare niente, io no, niente. E poi seguito a dirle: questo piccino è mio e non è tuo, e tu non hai da spartir nulla con esso. Alla prima occasione lo venderò, e tu, femmina, non stare a fare piagnistei. Occhio, ti farò desiderare di non essere mai nata. In questa maniera esse vedono subito alla prima che le mie non sono minacce da burla e tosto divengono mute come tanti pesci. Se poi una di loro si dà a guaire, allora. Locher lasciò cadere il suo pugno chiuso in modo da spiegare abbastanza quella sua reticenza. Ecco una cosa singolarmente espressiva, osservò allora Marx, toccando Hayley col gomito e reprimendo a fatica un certo suo riso beffardo. Davvero il nostro Tom è una specialità nel suo genere. In fede mia gli è un uomo da farsi comprendere. E benché questi negri abbiano sempre la testa dura, son certo che essi sanno quel che voi volete dire loro. Per fermo, se voi non siete il diavolo, Tom, gli siete fratello carnale. Potete dirlo per vostra gloria. Tom accolse il complimento con aria modesta e diventò tanto affabile quanto lo comportava la sua natura di molosso. Hayley, il quale aveva libato copiosamente, sentì ben presto un certo sviluppo operarsi nelle sue facoltà morali, fenomeno poco straordinario negli uomini gravi e riflessivi in circostanze simili. Ah, Tom, disse egli, ciò non sta bene. Come vi ho detto sempre, vi ricordate quando noi ragionavamo insieme su cotesto argomento, Anacits? Quante volte non vi ho provato che trattandoli più umanamente noi vi guadagneremo altrettanto e ce ne troveremo ugualmente bene qua giù. Inoltre si hanno migliori risultati per l'altra vita, quando siamo agli estremi e non c'è più nulla da guadagnare in questo mondo, sapete? Bah, rispose Tom Loker. Cose rancide, queste chiacchiere mi fanno veramente nausea, tanto più che ho lo stomaco un poco fuori di sesto. Tom tracannò mezzo bicchiere di acquavite. Ascoltatemi, proseguì Haley, rovesciandosi sulla sedia e gesticolando vivamente. Se occorre dirlo, ho avuto sempre in mente di fare in modo col mio commercio da ammassare un bel gruzzolo e presto, ma gli affari non sono tutto e il denaro non è tutto, poiché in fin dei conti noi abbiamo un'anima. Oh, non importa né punto né poco, che altri modo a parlare così. Io ho le mie idee su ciò e nulla mi impedirà che io le dica. Per me io credo alla religione e uno di questi giorni, allorché avrò ben provveduto ai miei comodi, mi propongo di occuparmi anche un po' della mia anima. La cosa merita seria riflessione e poi. Ah, che giova fare più male di quello che è necessario. Ditemi, è cosa prudente? Occuparvi della vostra anima? Replicò Tom Loker con disprezzo. Bah, bisognerebbe guardare assai minuziosamente per trovare un'anima nella vostra pelle. Io vi prometto che il diavolo avrà un bel da fare per cercarla. Siete di cattivo umore, Tom, disse Haley. Dovreste comprendere che parlo per vostro bene. Basta, basta, ne ho già piena la testa. Le vostre prediche mi sono insopportabili. In fin dei conti, qual differenza c'è tra me e voi? Siete forse migliore di me? No, davvero. È tutta ipocrisia, per ingannare il diavolo e salvare la pelle, se vi riesce. Io non darei un picciolo di questa vostra religione, la quale consiste nel togliere in prestito dal diavolo per tutto il tempo della vostra vita, per fuggirvene poi di nascosto quando è venuto il tempo della restituzione. Orsù, finiamola, signori. Tutto ciò non è di alcun vantaggio agli affari, disse Marx. Come sapete, vi sono vari modi di considerare un argomento. Il signor Haley è certamente uomo stimabilissimo e ha una coscienza assai delicata, e voi, Tom, avete il vostro modo di vedere, che è ottimo anch'esso, ma le liti non riescono a nulla di buono. Parliamo piuttosto di affari. E ora, signor Haley, che cosa dobbiamo risolvere? Avete bisogno di noi per riacchiappare questa giovane? Quanto alla giovane, provveda Shelby, procuri lui di riaverla se può. Io vado in cerca del fanciullo che ho fatto la corbelleria di comprare. Non è la prima che fate, borbottò Loker. Su via, Tom, non montate in collera un'altra volta, replicò Marx. Vedete, io scommetto che il signor Haley ci avvia un affare eccellente. Aspettate, questa sorta di affari sono per l'appunto il mio forte. Voi dite dunque, signor Haley, che questa giovane. A proposito, com'ella? Che cos'è? Che sa? È bianca, bella, ben educata. Io avrei dato di buona voglia 800.000 dollari a Shelby per ella e non avrei fatto un cattivo affare. Bianca e bella, ben educata? Disse Marx, tutto commosso all'idea di una preda simile. È un affare ottimo, Locker, è un'occasione magnifica di lavorare per nostro proprio conto su. Dunque, raggiungiamoli. Naturalmente il fanciullo sarà per il signor Haley e in quanto alla giovane, la condurremo a New Orleans per farvi su un piccolo traffico. Eh? Che ve ne sembra, Tom? Tom Loker aveva ascoltato attentamente, pareva riflettesse a questa combinazione importante. Guardate, diceva Max a Haley, pur seguitando a rimestare il suo pons col cucchiaio. I tribunali di questo paese sono un po' schizzinosi, ma noi sappiamo adescarli. Locker farà il gran colpo. Io poi arrivo in abito nero e stivali verniciati, giuro che la schiava è mia. Ed ecco finito l'affare. Bisogna vedere, continuò Marx in un vivo accesso di orgoglio di mestiere, quanta abilità vi so mettere. Un giorno sono il signor Twickham di New Orleans, un'altra volta giungo dalle mie piantagioni lungo il Pearl, dove 700 neri lavorano per conto mio. Oggi ho una lontana parentela con Enrico Clay, domani l'ho con qualche altro parruccone del Kentucky. Ogni uomo ha i suoi talenti speciali, Tom, per esempio. È terribile quando sa da menare le mani e bisogna battersi, ma per mentire egli non vale nulla. Assolutamente nulla. Che volete? Le bugie a Tom bisogna strappargliele con l'uncino. Ma per Dio, se in tutto il paese v'è qualcun altro che sappia prestar giuramento di qualsiasi cosa, con tutte le sue circostanze e particolarità, con un aspetto più imponente del mio, conducetemelo qua. Sarei curioso di vederlo. Ma in fede mia, credo che potrei condurre a buon fine un affare quando anche i giudici fossero dei più scrupolosi. Qualche volta, vedete, anzi, avrei caro che sì lo fossero, perché in fin dei conti ci sarebbe da divertirsi di più, eh? Che ne dite? Tom Loker, il quale, come abbiamo già veduto, era altrettanto lungo nelle sue riflessioni che nei suoi movimenti, interruppe Marx, dando col pugno sulla tavola in modo da far tremare ogni cosa. Va bene, disse egli, io accetto. Dio vi benedica, Tom, disse Marx. Non è necessario rompere i bicchieri per questo, serbate il vostro pugno per un'occasione migliore. Ma signori, non avrò anch'io la mia parte del guadagno? Domandò Haley. O tu avrai il fanciullo, rispose Locker, che vuoi di più? Mi pare, soggiunse Haley, che procurandovi un buon affare io possa esigere almeno un 10% sui profitti dedotte le spese. E via, gridò Locker, bestemmiando e percuotendo di nuovo col pugno la tavola. Non vi conosco io forse, Daniele Haley? Non crediate che mi lasci imbrogliare da voi? Credete che Marx e io ci metteremmo a correre sulle tracce di schiavi fuggitivi per riempire la vostra tasca? E lasciar vuota la nostra? No, mille volte no. Noi avremo la giovane tutta per noi e contentatevi. Diversamente avremo anche il fanciullo con essa. Chi potrebbe impedircelo? Non ci avete forse insegnato come si deve fare? Noi siamo liberi al pari di voi, credo. Se voi, oppure Shelby, vorrete intentarci un processo, padronissimi, voi sarete, ve lo dico io, i benvenuti. Là vi aspetto. Sì, come va grada meglio, disse Haley impaurito. Sia come avete detto, voi mi avete sempre mantenuto la parola in tutti i nostri affari. Io faccio assegnamento su di voi. Lo sapete, Haley. Io non voglio imitarvi nelle vostre smancerie, ma non voglio mentire nei miei conti, neppure col diavolo. Quel che dico lo fo, sì, lo fo. Lo sapete, Haley, non è vero? Sì, lo so, Tom, rispose Haley. E se volete promettermi di depositare il fanciullo tra una settimana in un luogo qualunque, non domando di più. Ma non è così che io l'intendo, soggiunse Tom Loker. Oh, ci corre assai, assai, io non ho mai conchiuso affari per niente. Vi ho forse mai dato l'esempio di lasciarmi sfuggire l'anguilla una volta che io l'abbia presa? Voi mi darete subito 50 dollari, né più né meno, se no rinunciate pure al piccino. Come? Fece Haley. Quando voi avete tra le mani un affare che può fruttarvi un guadagno di 1000 o 1600 dollari? In fede mia, Tom, non siete ragionevole. Sì, davvero. Non avremo forse da fare per 5 buone settimane, e chissà se basteranno. Supponete un po' che noi lasciamo ogni altra faccenda e ci strasciniamo di macchia in macchia dietro la giovane e il suo bamboccio, e che finalmente non ci riesca ad impadronircene, poiché è sempre una fatica diabolica il cogliere questa razza di femmine. Dite, come andrà allora la cosa? Ci pagherete un centesimo? Ah, mi pare di vedervi. No, no, fuori i 50 dollari. Se l'affare riesce, io li restituisco. Se no, li riteniamo per la nostra fatica. Non va bene così, Marx? Certamente, certamente, disse Marx con accento conciliatorio. È un'anticipazione soltanto, niente di più. E poi bisogna trattarci bene fra di noi, lo sapete? Tom vi condurrà il ragazzo nel luogo che voi vorrete, non è vero, Tom? Se io trovo il piccino, lo condurrò a Cincinnati e lo depositerò presso la vecchia Granny Belcher, là dove si smonta. Rispose Locker. Marx aveva tirato fuori dalla sua saccoccia un taccuino bisunto e spiegato dinanzi a sé un lungo pezzo di carta. Oh, disse egli, vediamo un po' i nostri affari. Barnes, contea di Shelby, il giovane Jim, 300 dollari per lui morto vivo. Edwards, Dick e Lucy, marito e moglie, 600 dollari. La giovane Polly, con i suoi due fanciulli, 600 dollari per lei o la sua testa. Scorro la lista dei miei affari per vedere se possiamo dar mano bravamente al vostro. Locker, riprese a dire dopo un istante di pausa, dobbiamo inviare Adams e Springer sulle tracce di questa giovane? Ma essi pretenderanno troppo, disse Locker. Aggiusterei io la faccenda, essi sono principianti negli affari e e si adatteranno a lavorare a un prezzo discreto, disse Marx continuando a leggere. Ecco tre casi facili, poiché non c'è che da tirare su di loro o da giurare che sono stati uccisi. Non possono dunque esigere gran cosa per questi. In quanto agli altri, soggiunse ripiegando il foglio, potranno aspettare un altro poco, quindi non ne parliamo per ora. A noi adesso, signor Haley. Intendiamoci bene. Vedeste quella vostra donna nell'istante che toccò la riva? Sì, certo, chiaramente, come vedo qui voi. E un uomo l'aiutò a salire sulla sponda? Disse Locker. Per certissimo. Sembra molto probabile, soggiunse Marx, che ella abbia trovato asilo in qualche luogo, ma dove? Ecco la gran questione. Tom, che ne dici? Boh, bisogna che noi passiamo stasera il fiume ad ogni costo. Ma non c'è alcun battello, ripigliò Marx, e i ghiacci rendono il passaggio molto pericoloso. Non so niente io, ma certo è che bisogna andare, disse Locker risolutamente. Brontolò Marx con aria dubbiosa, e poi, per verità, disse accostandosi alla finestra, è buio come nella tana del lupo. Ho capito, Marx, voi avete un po' di paura nelle ossa, ma non so che farci, bisogna andare. Voi preferireste, forse, di riposarvi qui un giorno o due fino a che la donna sia giunta per la linea sotterranea dei Manutengoli prima di voi a Sandusky o altrove? Oh no, io non sono per nulla impaurito, disse Marx. Solamente che cosa? Domandò Tom. Nulla, dico per il battello, ben vedete che non c'è battello alcuno. Ho sentito dire dall'ostessa che un uomo deve stasera attraversare il fiume in una barchetta. A ogni costo bisogna andare con lui. Suppongo, disse Haley, che avrete dei bravi cani. Oh, di prima qualità, rispose Marx. Ma che ci varrebbero? Voi non avreste per caso alcun oggetto suo da far ad essi fiutare? Ah sì, ne ho, disse Haley con enfasi di gioia. Ecco il suo scialle che la dimenticò sopra il letto nel fuggire, e anche il suo cappello. Oh, è una vera fortuna, esclamò Locker. Date a me queste cose. Però io temo che i cani mi guastino la donna se le si gettano addosso. E ciò merita considerazione, riprese Marx. I nostri cani un giorno fecero quasi a brani un taglialegna laggiù a Mobile, prima che noi potessimo ritenerli. Sicuro? Per questa specie di schiavi che si vendono per la loro bellezza conviene tenere a altro modo, osservò Haley. La cosa è chiara, riprese Marx. E poi, se ella è in una casa, i cani a nulla servirebbero, del pari che negli stati liberi, dove si può viaggiare in vettura, ond'è che non potreste seguire la sua traccia. I cani giovano solamente nelle piantagioni dove i neri, quando fuggono, sono costretti di andare a piedi. Su, via! Disse Locker, che tornava dal banco dove era andato a raccogliere informazioni. Costoro dicono che l'uomo è giunto col suo battello, perciò Marx. Questo brav'uomo rivolse uno sguardo di rimpianto verso la camera dove stava così a bell'agio e da cui doveva partire, e lentamente si alzò. Dopo aver scambiato alcune parole con Tom Locker circa ulteriori intelligenze, Haley, con visibile rincrescimento, gli contò i 50 dollari. E i degni compagni si separarono.